teniamo molto come biblioteca, ogni anno la ricordiamo con un intervento, con un film, con un docufilm, con delle conferenze, dei dibattiti, oppure anche presentando magari un nuovo libro, anche perché è un argomento ancora tutto da scoprire, nel senso che ogni anno ci vengono pubblicati dei nuovi documenti e questo dimostra che è successo, ecco, quindi non è stato un frutto di un'invenzione, non è una fake news, purtroppo è vero, anche se ha dell'incredibile quando si vedono dei filmati o si sentono poi delle testimonianze dirette. Della memoria anche la biblioteca ha fatto tesoro e soprattutto un obiettivo fondamentale, e in questo senso siamo particolarmente attivi, come lo sono tantissime altre istituzioni nel nostro territorio. Ricordo l'archivio storico del comune di Bolzano, che ha avuto una parte fondamentale e lo ha ancora in tutte le sue ricerche, nelle sue testimonianze. La biblioteca invece diffonde dei messaggi, dei libri, e quindi propaga delle informazioni e delle opinioni, delle idee e dei contenuti in altre forme. Vi ringrazio di essere così numerosi, questa è un'iniziativa voluta insieme appunto all'AMPI, qui con me c'è Guido Margheri, ma soprattutto vi voglio ricordare appunto anche la presenza non solo del presidente attuale della sezione bolzanina, c'è anche con noi qui il senatore Leonello Bertoldi e soprattutto il nostro sindaco della città di Bolzano, che è sempre presente e si fa promotore di tutta una serie di percorsi dedicati al ricordo di quello che è stato in funzione appunto di una qualità di vita e un atteggiamento culturale anche diverso. E ricordo anche che c'è con noi il regista di questo docufilm che andremo a vedere fra poco, Franz Oberhofler, e saluto. E è un documentario realizzato prevalentemente sul territorio, con alcune ispezioni ho visto, ho riconosciuto anche alcune attività che abbiamo svolto qua in questa sala alcuni anni fa. Lo ringrazio perché è riuscito a riassumere una serie di testimonianze anche molto toccanti, però anche con dei flashback sulla gioventù, la reazione che hanno gli studenti quando viene affrontato questo tema, che ci danno anche la possibilità di sperare, insomma, che ci sia ancora la possibilità di seminare bene anche presso le nuove generazioni e rendere anche una vita sostenibile, un ricordo che abbia un senso, ecco, no? Una memoria che abbia un senso. Le testimonianze sono molto toccanti e qui si apre poi un capitolo anche particolare, cioè quanto noi oggi lavoriamo sull'emozione e quanto poco sul sentimento. Quello che emerge dalle testimonianze delle persone, dei pochi testimoni che sono sopravvissuti, o anche i testimoni, diciamo, indiretti dei piccoli ragazzi che hanno notato, hanno visto, hanno colto in quel momento delle tragicità, ecco, emerge un sentimento. Il sentimento è qualcosa di diverso, di superiore rispetto alla nostra emozionalità. Probabilmente l'emozione ci tradisce spesso ed è forse la base che ha portato a queste tragedie spesso e anche alla violenza. Invece il sentimento che emerge è di una delicatezza e di un'intelligenza, soprattutto l'ho sentito in alcune prese di posizione, con una forza che mi ha veramente colpito molto. Sono contenta di poterlo stasera presentare grazie a voi e con voi vederlo, perché nella sua semplicità merita molto anche capire e ascoltare le parole di certi uomini e anche di certe donne che Franz è riuscito a cogliere nei momenti più salienti. Lo ringrazio. Cedo la parola subito a Guido, non prima di aver detto per dovere del mio lavoro che la biblioteca è qua sotto al piano terra e può così anche vantare ogni mese un approvvigionamento di qualità, che sono i libri che ci dona l'avvocato Arnaldo Lohner, e un avvocato che ha avuto una parte non indifferente nella storia di questa città e soprattutto in tema, ecco, di quello che è stato purtroppo il Durchgangslager e Misha Seifert. All'avvocato Lohner ci dona mensilmente dei libri, stiamo costituendo un fondo bibliografico che ormai è arrivato a 300 libri, sempre dedicati alla persecuzione, al razzismo e alla Shoah. Qui abbiamo alcuni testi anche della biblioteca generica, se volete potete consultarli oppure prenderli in prestito oppure tornare nei prossimi giorni a vedere quello che noi offriamo come materiale e come così, lettura per comprendere, capire, conoscere altri aspetti di questi episodi, di questa storia tristissima. Grazie. Grazie a Valeria Trevisan, grazie alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta e al Centro Trevi per una collaborazione che c'è da anni e che sempre riesce in alcuni momenti a realizzare cose importanti. Oggi, che è il giorno della memoria, volevamo utilizzare un lavoro importante che è un altro tassello di un ragionamento che portiamo avanti da diverso tempo. Qualcuno di voi avrà notato, il nostro circolo culturale si intitola a Franca, Anita Turra e Hanse Gerter. Sono una partigiana italiana che sostanzialmente coordinava il sostegno e l'aiuto a chi era dentro il lager di Viareggio, e Hanse Gerter era il comandante dell'Andreashofer. Ovviamente, perché abbiamo voluto unire in un unico circolo due esponenti di due resistenze? Perché, come vedrete nelle testimonianze del film, e come riporta l'importante relazione che abbiamo messo sulle sedie all'inizio, la relazione storica di Carlo Romeo, che è stata pronunciata in un'occasione importante, e cioè in occasione del giorno dell'autonomia di quest'anno, dove il giorno dell'autonomia ha dedicato al tema resistenza e autonomia una relazione intera. E non era scontato che succedesse. Qualche anno fa non sarebbe stato possibile. Perché lo abbiamo voluto fare il giorno della memoria, grazie alla gentilezza della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta? Perché i treni che sono partiti dal Durkheimslager di Bolzano erano pieni di quelli che sarebbero diventati triangoli rossi. Sul binario 21, tanto caro alla senatrice a vita Liliana Segre, c'è una grande parola, se uno va a leggere, che si chiama indifferenza. E per definire coloro che hanno fatto la resistenza anche in condizioni estreme e difficili come l'Alto Adige-Südtirol, si potrebbe alla fine dire, in ambedue i gruppi linguistici, quelli che non sono stati indifferenti, cioè quelli che in un qualche modo hanno cercato di dare una mano a delle persone, a dei fuggiaschi, magari in un momento molto pericoloso, magari organizzando la fuga da quel lager, magari organizzando le fughe degli ebrei per sottrarli alla deportazione, oppure, come è successo per esempio una partigiana che poi ha combattuto in Piemonte, di cui la storia spesso non viene, è stata ricordata da Claudio Pavone, bruciando l'anagrafe del comune di Bolzano, come avvenne l'8 settembre, per impedire che le liste di leva fossero prese dall'Alto in Forland e costringessero i giovani. In questa condizione il confronto tra le due resistenze, come sapete, era molto difficile, perché da una parte le divideva ovviamente la questione della appartenenza territoriale dell'Alto Adige Südtirol. Eppure, come raccontano ormai diversi testi storici, in quelle condizioni difficili, Manlio Longon, che era responsabile del Comitato di Liberazione Nazionale, fu incarico del CLN nazionale attraverso il capo del CL Trentino Lanci, cercò un accordo con l'Andrea Schoenfeld in una serie di incontri con Erich Hahn. Guardate, ovviamente quegli incontri non portarono molto, perché pochi giorni dopo quegli incontri Manlio Longon sarebbe stato arrestato e ucciso nel quarto corpo d'Arnanda. Eppure quegli incontri hanno lasciato tracce, perché da una parte le idee con cui si presentavano a quegli incontri il CLN di Bolzano erano idee molto avanzate per allora, perché parlavano di autonomia, parlavano di lingua, parlavano di diritto, di rispetto, di reciproco rispetto, parlavano di autonomia, praticamente gli accordi di Parigi. Guardate, è importante, persone che a rischio della vita, nelle condizioni clandestine, facevano riunioni per discutere di questa cosa. E anche Erich Hahn, pur ponendo la questione dell'autodeterminazione, e poi a Segart, attraverso il gruppo di cui avrebbe fatto parte anche, di cui faceva parte anche Maier Nusser, si posero il problema dell'ascolto e del fatto che essere antinazisti e antifascisti in quella situazione doveva comunque avere elementi di contatto nelle questioni fondamentali. Le testimonianze diverse che vedrete, per esempio quella su Manci, personaggio straordinario, che ha anticipato alcuni temi della nostra autonomia, sono tutte legate a questo filone. Ed è per questo che noi abbiamo voluto riprendere. Nella speranza, lo dico qui perché qui è successa una cosa molto importante, sempre per merito delle iniziative che facciamo insieme alla Biblioteca Provinciale. Attraverso un confronto e un dialogo sulla deportazione degli ebrei sudtirolesi, con l'importante libro di Sabine Meyer, Quando la patria uccide, in cui si vede come i singoli deportati sono tutti deportati e denunciati da vicini di casa, persino da parenti che si impadroniscono oltre che dei loro beni, ma fanno in modo che spariscano. E in quell'occasione il presidente della giunta provinciale chiese scusa. Qualcuno dice tardivo, ma se non ci fossero state sarebbe stato più grave. E non solo chiese scusa, ma disse una cosa che poi avrebbe reso chiaro il libro di Costantino di Sante qualche mese dopo, e cioè che tra i carnefici dell'Ager c'erano, tra le vittime dell'Ager, ma tra i carnefici dell'Ager c'erano molti sudtirolesi. Perché ho ricordato questo episodio del presidente Durvalli? Perché vedete, in tutta questa cosa delle due resistenze c'è una giustizia da rendere e che oggi vorremmo rendere. Ed è il fatto che i partigiani sudtirolesi, per la questione dell'autodeterminazione, rifiutarono il diploma Alexander. Lo rifiutarono perché dentro c'era un riferimento solo alla liberazione dell'Italia e loro volevano un riferimento anche al Sudtirolo, che ovviamente in quelle condizioni non era stato possibile fare. Però guardate, molti di loro, in particolare quelli usciti da Dachau, penso a Friedl Folger o ad altri, avrebbero cercato poi di permeare nella loro iniziativa anche la futura Volkspartei, anche il futuro confronto sull'autonomia. E sono state risorse preziose negli anni per evitare che la situazione diventasse ancora più grave di quello che era diventata. Però guardate, la cosa più grave è che negli anni 50, quando, come diceva Hans Segart, sono tornati quelli di prima. Molti di quei partigiani sudtirolesi, privi dello scudo del diploma Alexander, furono processati e condannati dalla corte d'appello come dei banditi. Uno fece 30 anni di galera prima che, grazie all'incontro fortuito con un personaggio come Giovan Battista Lazzagna, che scrisse un libro e ha un comitato molto forte, il partigiano Pirner, uno se la cavò per grazia. Sandro Pertini lo graziò. Beh, noi pensiamo che sia l'ora di rendere che la provincia autonoma di Bolzano chieda una revisione di quei processi e valorizzi quelli che sono stati i suoi partigiani, di tutta la provincia, di tutti noi, all'interno di questo. Ovviamente all'interno c'è anche il partigiano che abbiamo ricordato sabato 25 gennaio, Vittorio Mae Pasquale, detto Spazzo, che ha combattuto in Val di Non, è stato dimenticato per una colpa originaria, cioè di essere nato sinto. Eppure era un grande poeta e un grande musicista. Ecco, il lavoro nostro è questo. Il lavoro nostro è quello di costruire questa memoria. Serve? Io credo che dentro questa memoria, lo ha detto Liliana Segre, ma l'hanno detto in tanti, soprattutto della memoria di chi non è rimasto indifferente, ci siano gli anticorpi per affrontare i problemi di oggi. Perché purtroppo Primo Levi si sbagliava. È accaduto, può accadere di nuovo, invece sta accadendo di nuovo. Questo è il problema. E siccome sta accadendo di nuovo, noi abbiamo bisogno di ricostruire le radici attraverso questi film, attraverso queste iniziative, non per solo come doveroso omaggio al passato, ma perché all'interno di questa memoria ci sono i valori fondanti che ci consentono di costruire il presente e il futuro. Questa è la ragione di questa serata, il giorno della memoria, e questa è la ragione del lavoro di Franz Oberkofer, a cui do subito la parola dicendo che subito dopo di lui vedremo insieme il professore Franz, presente. Buonasera, ringrazio tutti quelli che sono presenti e ringrazio Nello Di Colli, che ha aperto la porta per vedere la memoria. Ringrazio il sindaco. Io penso che la memoria è molto importante, perché se noi dimentichiamo le cose che sono successe, succedono ancora, o potrebbero succedere di nuovo. Per quello io non vorrei dire tante cose, vorrei ringraziarvi tutti e sono stato contento di poter fare questo lavoro per l'AMPI. Ringrazio Aldo Visco Gilardi, che è venuto da Roma, che è il protagonista, anche lei è il protagonista. Bene, grazie e vediamo il film. Grazie. Bene. Aldo Visco Gilardi, vieni un attimo, di cui presenteremo un libro a lui dedicato molto presto, tra l'altro. Grazie, per me è stata una improvvisata sapere da Mariella che c'era questa serata o che si era realizzata l'intervista che Mariella aveva suggerito a Franz alcuni anni fa. Non ho visto il filmato, quindi sono curioso, perché quando mi aveva mandato e l'ho sbobinato mi ero reso conto che avevo sbagliato completamente l'intervista, nel senso che ho dato per scontato alcune conoscenze di fatti, alcune conoscenze di avvenimenti, e avevo, credo di ricordare, parlato più della personalità dei miei genitori e dell'atmosfera che c'era nel periodo dell'attività del campo di concentramento e di tutti quelli che collaboravano al fine di cercare di portare sollievo, aiuti ai derelitti, alle derelitte che erano là dentro rinchiuse. E quindi non so se queste cose ci verranno fuori, evidentemente sì, sono curioso anch'io di vedere. Sono grato a tutta la generazione delle persone che hanno, sono state numerosissime, che hanno potuto collaborare in quella opera umanitaria, politica, di fede, di cercare di liberare dalle sofferenze e da regimi oppressivi. Grazie. Bene, adesso ci vediamo il film. Vi ricordo che mercoledì, questa volta alla Biblioteca Civica alle 18, presenteremo la ristampa del quaderno della memoria numero 1. Dedicata al Lager di Viareggio, con testimonianze ci sarà Gabriella Turra, con interventi ci saranno interventi di Paolo Valente, Carlo Romeo, Giorgio Mezzalira, e sarà sicuramente un'altra serata interessante, anche perché il tema è dall'oblio alla memoria viva e quindi come proseguire su questa strada. Grazie, e adesso vediamoci il film, e grazie ancora al sindaco per la sua presenza. Von dem, was Nazi-Deutschland wirklich war. mein Vater und zum Beispiel die Jugendgruppe, die geleitet hat, also die wussten, was Nationalsozialismus bedeutete. Aber der große Bevölkerung wusste es eigentlich nicht. Das sind natürlich dann eine sehr leichte Beute für die Nazi-Propaganda geworden. Zum Beispiel ein Propagandaschlager war, ja, unter Hitler sind die 10 Gebote Staatsgesetz. Und es gab Leute, die sind drauf eingefallen. Ja, es ging mit der Revolution war, nicht 1933, wo wir eben Hitler und Mussolini darauf streiten, dass sich Hitler nach Norden zog. Ja, da lacht man mir aus, und mein Bruder will aus, mehr nah aus. Io li vidi partire sia dall'Alto Adige, non tanto dall'Alto Adige, quanto dal Trentino. Ero a Pergine, in Valsugana, con mio padre, e sembivano dei carri guidati da buoi dalla Val dei Mocheni, di lingua tedescofona, che chiese mio padre, ma dove vanno? E disse che va a star meglio, erano tutti i Mocheni che partivano. Salivano sul treno diretto in Germania pensando di andare a star meglio. Das Dableibergedicht, geschrieben von Hans Eckerte, dem späteren Leiter der antinazistischen Widerstandsorganisation in Südtirol, dem Andreas Hoferbund. Am Erker blüht wie immer die leuchtende, brennende Lieb, die Treue zur Heimat war stärker, wie jauchzen wir, dass sie uns blieb. Fiorisci tu fiore, un segno della fedeltà tu sei. Annuncia che fede e Heimat sono le cose più grandi per noi. Sì, mein Vater haben sich eben oft die Sonntage gewartet, um eben in die Dörfer zu gehen und zu versuchen, den Leuten das Auswandern auszureden. Da waren sie mal und da haben sie mit einem Bauern geredet, der die ganze Zeit das Anhelfen hatte und sagt, ja. Ja, das machen Sie, ja, wie will aussehen. Ja, meine Eltern sagten, warum denn? Sie haben doch da einen schönen Hof und geht Ihnen gut. Ja, sagt er selbst, stimmt schon, aber das ganze Dorf will aussehen. Ja, sagen meine Eltern, da ist doch kein Grund, auch mitzugehen, das ist da gut haben. Da hat er gesagt, ja, ich bin lieber mit dem ganzen Dorf in der Hölle als allein im Himmel. Non veniva a lungo accettato le opzioni, perché esattamente? Sembra sia stato il più grande sacrificio che vi hanno imposto, sì. non c'è dubbio. Sradicare un contadino da ma si poteva anche votare per Stalin. Sì, ma era difficile, mi rendo conto. Sì, perché la propaganda tedesca era talmente forte. Minacciava di mandarlo in Sicilia. Sì, che nessuno l'ha mai detto ufficialmente. No. Però l'orecchio. Non era neanche scritto, hanno soltanto nessuna parte. Era un fake news fatta dai nazisti per avere tutti i voti. Sono nato a Livorno, ecco, dove ho studiato presso l'Istituto Geometri Galileo Galilei, dove mi sono diplomato e immediatamente cooptato come tecnico per la stima dei beni per gli ottanti della Germania, per la provincia di Bolzano. Alla tua età vai a assistere a un vero e proprio genocidio in cui sia Hitler che Mussolini vogliono eliminare totalmente la popolazione di lingua tedesca per ragioni di carattere militare, perché per allearsi con Mussolini Hitler aveva promesso che li avrebbe liquidati e avrebbe dato il confine al Brennero, e con quello che è successo realmente. Sì, sì, beh, il fascismo e il nazionalsocialismo avevano fatto l'asse all'asse Roma-Berlino. Però nel 1943, quando è venuto la Wehrmacht a bloccare gli americani in realtà, perché il fascismo italiano era crollato, allora c'erano tanti. L'hanno rifatto nuovo sul campo di guerra. Sì, ma sì, non aveva una grande importanza in questo momento. Dopo l'8 settembre le province di Bolzano, Trento e Belluno furono riunite in una zona di operazione delle Tre Alpi. I poteri civili e militari furono conferiti al commissario supremo Franz Hofer. Tutta l'amministrazione fu strettamente controllata dalle autorità germaniche. Un militare per direct von Livorno, c'è un mail direct in Zeitung in Rom. un dono di destinazione che morte e sorte in venaria reale, disse Mochen. No, sei in venaria reale, un do paio di grenze e sei in dice, di flac, sei in dolce. Mi fai una piroma di sigarette, no? Tu sai, un figlio buono si sa anche come, su messi per annunciare il rancio. All nine, di programma Fambatoglio, gli c'è Kriegensi di Waffen, un missensi schissen gegen di Deutsche. Viremo sotto, belche Deutsche missensi schissen, lenzi omso di ganze Flak. Si prega nur so machen, damit die Kanonen in 2 minuti existierten, nicht mehr in Torino. No? Ich wollte per die Luftwaffe, ich hab gesehen, in 500 Meter fangen sie zu schießen. Die anderen haben sie angefangen zu schießen in 3 Kilometer. Und ich habe so mein Kollege, so ist bei mir, mit dem Kopf weg. Weil wir haben 40.000 Affen, die Pergen mit den Schuhen gemacht haben, vom Presse, mit dem Karton gepresst. Weil in Kanada ich war mit Aiutanten di Battaglia von Re Costantino, interessate Vittorio con mir erinnern, so da bin ich arme Leute ohne Essen, mit alle gefrorene so fischen, sie seien gekommen, arme Teufel, so, sie haben keine Waffen, so, was sind sie gekommen? Die Italien wollte in Nordgriechenland, wenn die nicht die Deutschen gewesen seien, hätte verloren, so, wir haben keine Armee. Onore ai 14 partigiani e ai 3 civili caduti per mano nazifascista il 12 agosto del 44 a Magazzonda. E io sono entrato in un'organizzazione partigiana. Allora noi giovani andavamo alla perfezione, avendo 16 anni eccetera, per fare i servizi di staffetta tra la città e le zone di montagna. E lì, va bene, ci ha catturati per delazione proprio, va bene. Da lì fu spedito a Bolzano, qua, al Durkanslager di Bolzano. Perché una volta entrati uomini e donne, venivano spogliati completamente nudi, venivano rasati completamente di tutti i peli possibili, immaginabili e nudi, venivano cosparsi con una mano di creosoto, che era un disinfettante, creosoto giallo, che era un disinfettante. Poi a loro veniva gettata una tuta e un paio di zoccoli e un cappello, che era molto importante. Ma il buongiorno che è entrato qui ha avuto un triangolino azzurro, perché tutti i prigionieri alleati avevano il triangolo azzurro. Qui dentro sono arrivate persone da tutta l'Alta Italia occupata dai nazisti, di 26 nazionalità diverse. Sono entrati dentro 25 preti accusati di carità, frati, monache, tutti dentro, perché non si doveva fare la carità, perché non si doveva aiutare quelli che erano diversi. Tu sei un Gilardi, vero? Io sono Leonardo Risco Gilardi. Leonardo, perché sei qua tu oggi? Ma indovina, perché mio padre era l'organizzatore del Comitato di Liberazione clandestino, che poi è stato dentro il blocco cella, che è stato torturato dalle SS. Mi racconti qualcosa di tuo padre? Mio padre faceva l'editore poi a Milano. A Milano, e pubblicava dei diversi libri antifascisti. Ha cominciato a organizzare assieme a Longone, a Pedrotti e a tutti gli altri, a Longone e così via, ha cominciato a organizzare il comitato clandestino di aiuto ai deportati qua dentro, che è stata un'organizzazione incredibile, mai scoperta dalla Gestapo, neanche dopo, mai smantellata neanche dopo che hanno arrestato tutto il comitato e hanno ammazzato Mario Longone. Thank you. sono passati 9500, sono stati catturati tutti dai fascisti e consegnati alle nazisti. Solo i sudtirolesi di questa provincia sono stati catturati dai nazisti. Sì, sì. Bastava che uno girasse da una parte. Quelli che non famiglia veniva presa. Sì, sì, sì, quelli che non andavano in guerra, se li beccavano, li mettevano subito. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia dentro, sì. Come Sippen. Sippenhaft. Sì. Sì, lo chiamavano anche così, no? Sippenhaft. Sie sind ja Geometrien, kennen Sie ausmessen, selbstverständlich, aber meine Geräte haben. Ja, seien Sie imstande zu den neuen Flugplatz von Putzen, weil ich ja kleine Flugplatz. Wir brauchen 600 Meter weiter, weil wir müssen kommen die Messerschmied. Sagt er, ja, und die Leute können sich sein frei zu nehmen, die Gefangene in Via Resia. Kennen Sie alle die ganzen Gefangenen, bringen Sie da. Und kriegen sie die Geräte und ich bin auch wie am Anfang. Ich bin im Vormittag da, wie Resia. Es sind gekommen 30, 40 Leute. Ich soll es selektionieren. Selektionieren. Sie haben mir selektioniert. Weil ich gesagt habe, die Leute, wenn das kommt, in zwei Tagen ist gestorben. Und ich habe eben genommen, minimal 30 bis 50 Leute. Sie haben mit die das vor. In Foodplatz gebracht. No? Und da heißt in Italienisch Eisenpanel, jeden Nachmittag um 6 Uhr haben sie mit dem Zug geortet und es von 50 sind geblieben 10. Die anderen sind alle weg. La sera, vicino alla tenda sicura, gli eroi si toglievano freddo e paura. Nel febbraio 1944 Longhon fu il promotore della costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale di Bolzano. Mio padre entra nel Comitato di Liberazione Nazionale di Bolzano. Per stabilire il contatto con le persone all'interno del lager, mio padre ha trovato un collegamento di un manutentore, di una ditta che aveva la manutenzione delle latrine del campo, e quindi si traveste da idraulico, va per pulire i cessi e gli scarichi. Nell'ambito di questa rete si è creata anche la possibilità dei contatti diretti tra l'interno e l'esterno, l'esterno e l'interno, o mediati attraverso il passaggio di alcuni bigliettini, molti bigliettini clandestini. Che arrivano, sì, qui dietro, sì, sì, e poi quando si abbracciavano, sì, era il momento, sì, si prendeva, sì, sì. Un altro aspetto del sistema di torture che i nazisti praticavano è stato quello di arrestare mia madre. Vede uscire il marito sostenuto da due SS, ovviamente pesto, sanguinante, lacero, si sono guardati con intensità negli occhi. E per tutto il tempo in cui c'è stato questo passaggio. Da settembre 1944 cominciò una stabile assistenza agli internati del lager di Bolzano. Si organizzarono diverse fughe, almeno nei primi mesi, in sinergia con la rete di assistenza interna, guidata dalle internate Ada Cufolini e Laura Conti. Io mi chiamo Mila e devo dire sono qui per merito del senatore, perché il primo gennaio mi ha mandato una lettera che era stata scritta da Egidio Meneghetti 72 anni fa e devo dire che ho capito che la vita davvero è che dovete ricordare e vissuto, mio papà vive ancora, davvero a lei. Poi un appello della mattina, chiamano il numero e vengo fuori. Dal campo ne siamo riusciti a partire con tutto quello che avevamo, vestiti, e avevamo anche qualcosa da mangiare, perché il Comitato di Liberazione di Bolzano, gli italiani, meritere come un momento, insieme con quelli che ne so, però, perché facevano finta di non vedere, perché mi ha mandato dentro un pacco di roba da mangiare e non sapevo da dove veniva. C'era il ministro, apparentemente sembrava che fosse entrato a quelle poste. Lì, guardi, hanno fatto veramente cose stupende per aiutare i prigionieri. E devo dire questo, c'era la complicità silenziosa di buona parte della popolazione di lingua tedesca. Era una complicità silenziosa, si può mai capire. Mauthausen, arriviamo a Mauthausen. È qualcosa difficile da descrivere, sembrano quei film dell'orrore. Ora, diciamo che Campo di Bolzano ci aveva dato un'altra visione della prigionia. Era una prigionia dove c'era il rispetto umano. Io non posso dire che mancasse, c'era sì due delinquenti non tedeschi, Miscia e l'altro, che io non mi ricordo quel nome dell'altro, ma lì il rispetto umano c'era. Dio, c'era le ristrettezze di una prigionia, va bene, niente da dire, ma niente di inumano organizzato. Poi per finiti gli orari di lavoro la sera, cioè, si conversava tra noi, non eravamo isolati, non poter conversare, eccetera. Quindi arrivare là sembrava, non so, Dio, essere usciti dal mondo. La fame, signori, portata così avanti, ti rende poco a poco idiota, letteralmente. Perché non ragionavamo molto, va bene? Chi non sapeva darsi una filosofia e cosa erano i primi che sparivano? E pensare ai ricordi scordavano presto i morti del giorno. Non può essere anche un'iniziativa di grande spessore politico e ideale, presa in contatto con l'industriale Erich Hamann, di cui erano noti i sentimenti antinazisti, e in effetti era un riferimento dell'Andrea Sofero, per invitarlo a far parte del CNN e avviare una collaborazione. Rappresentano a livello simbolico il primo timido passo del dialogo democratico tra i linguistici in questa provincia. Agli occhi di Schiffer, Lombard rappresentava un ostacolo ai suoi piani di infiltrazione. Così, in accordo col proprio superiore, ordinò di farlo uccidere la notte del 31 dicembre. Il mattino dopo fu simulato un suicidio per impiccagione. Pensare che a farti tremenda la sorte era quell'amore ad un gioco di morte. Una ventina di componenti e collaboratori del CNN di Lombard furono arrestati, torturati, internati nel lager di Bolzano, e alcuni dei loro ricordati. Sette di loro non tornarono più, è giusto ricordare i loro nomi. Adolfo Veletta, Tullio De Gasperi, Erminio Ferrari, Decio Frattini, Walter Masetti, Gerolamo Meneghini, Romeo Cresa. E dal comando della Gestapo hanno telefonato a tuo papà. Sì, e lui si è presentato e non è più tornato. Mario Lungone è in buona compagnia, c'è il beato Maier Prusser, che ha fatto per motivi, gli stessi motivi di democrazia, è morto a Erlangen, c'è Franz Thaler, Claudio Abbado, e quindi qui spero che si sviluppi un bosco di persone sempre più coraggiose e intelligenti. Die Opfer haben ein Anrecht auf Gerechtigkeit. Und jenen, die die Kriegshexe waren und die Leute an die Front geschickt haben, die müssen vor ein Gericht kommen. Verzeihen wir selbst dem damaligen Verräter bereit sein, die Hand zur Versöhnung zu reichen. Allerdings keinen Millimeter abzuweichen von der historischen Wahrheit, die historische Wahrheit zu erzählen, ohne Omissis, ohne nachträgliche Beschönigungen, ohne Auslassungen. Und vor allem, sie aufzuschreiben für die junge, für die nachkommende Generation. Die Jugend muss wissen, was damals passiert ist. Franz Thalers große Leistung ist, er hat sich selbst freigeschrieben. Und darum, lieber Franz, sage ich dir ganz einfach Danke. Un allarme e tutti in un soffio mi dicono Manci è arrestato, altri arresti in corso, la spia è Lutterotti. Manci è già dal mattino nella stanza al terzo piano, è qui, in questa stanza, dal maggiore Schiffer, lo hanno interrogato e ferocemente torturato, sempre distrutto. Ora forse tornerà. Un attimo, basta quell'attimo per decidere. La fatica è scavalcare quel davanzale. Rientrano gridando «Alt!». Lui ha raggiunto già il davanzale, le sue mani lo trattengono su questa cornice. Entrano gridando e lui si lascia andare. Quella è la finestra. Da lì Manci volle cadere. Questo qui è quello di Manci. Leggi, ho avuto notizia dal vecchio Guido Larcher. Guido Larcher, certo, sì. Della fine di Gian Antonio, era stato arrestato in conseguenza di altri arresti, sì, avvenuti a Trento a Roverito Arriva, ed è stato finito nelle carceri di Trento, alla Chetichella, tanto che si è fatto di tutto perché la notizia non trapelasse e si sono molto inquietati quando si è diffusa. L'altra versione, non appurata, si sarebbe gettato da una finestra delle carceri mentre veniva tradotto in ignorasi dove, perché la salma non venisse riconosciuta e non subisse autopsie, è stata portata a Bolzano, dove con lui scompare una grande figura di modesto patriota e amico, italiani e trentini sapranno vendicarlo. Non è mio padre, perché io lo ricordo quando questo è arrivato e c'erano in questa stanzetta piccola e mio padre si è messo a piangere e c'è stato un momento di... Questo qui mi ricordo quando emozione, è arrivato, grande, sì, grande emozione, chiaro, certo. Chiaro, no? Certo. Essendo decapitato l'organizzazione, subentrano le donne, le mogli. Mia madre riesce a dare il bandolo della ripresa del filo organizzativo e quindi le donne portano avanti questo lavoro e quindi anche dopo mia madre riesce a coordinare dall'interno l'attività. Ho preso parte attivissima con tutte le mie forze al movimento patriota clandestino e ho lottato contro nazisti e fascisti repubblicani. Molti compagni sono caduti, chi in una guerra aperta, chi nelle celle di un campo di concentramento che esisteva a Bolzano, assassinati nei modi più barbari dei soldati SS. E sentire la morte e il dolore che aleggiano in quei luoghi rende davvero più consapevoli di ciò che la bisnonna, come tanti altri partigiani, ha compiuto e soprattutto del coraggio che ha avuto. Lei faceva solamente ciò che riteneva giusto, solamente. Erano i primi giorni di settembre del 1944. A Malgazzonta, lassù dopo il Passo Coen, i fascisti e i nazisti hanno ucciso 17 persone. 17 persone fra malgari e partigiani. Perché qui ci sono stati degli uomini che erano disarmati e hanno cercato di fermare la guerra con le mani. Ho sempre creduto questo, che fossero stati i nazisti cattivi, ma invece sono stati anche i fascisti che hanno sparato. E hanno sparato anche quelli del CST, Comitato Sicurezza Trentino, e anche dei trentini hanno sparato qua. Ma quei trentini era come la SOT in Alto Adige? Sì, era una specie di SOT, perché i carabinieri a Bolzano non contavano più niente e c'era la SOT, ma il Trentino era il Corpo di Sicurezza Trentino. Sono il fratello più giovane di Bruno Viola, ecco, e l'ultimo ricordo che è stato a casa, mi aveva preso in braccio e le parole che mi ha detto: stai attento che vengo a casa, vedrai, stai sicuro che vengo a casa. Quando sono stati fucilati qua e poi sono stati sepolti sugli assù, ecco. E lui era su, non se ne manca qua su con una settantina di partigiani e quando ha sparato qui lui è riuscito a portarli via. Mi sono messo ero ferito e li ha salvati. Ero ferito che ero qua. il braccio così, no? E sono venuto per decidere cosa fare. Mi ha lasciato su 70 uomini. E no, non trovava nessuno. Un di partigiani, ciao, fanno le discussioni, ma i partigiani sanno i rotte, non sanno i grine. Un te, mer, non si che kämpft, di rotte che vendi grine. Niente che vendi dolci, ma che vendi dolci non si nordesi che opta io per sempre vicino. In primo l'anno la si spassite, mi tengo la sfuga che come mi ti dolci. Un do sai di partigiani, non sai a fare le discussioni. Un do niente una bola blindato. Otra parte son de volta no se han perdido. Al primo di maggio le SS mandano a campo e subentrano alla guardia pompieri anziani di via mare, Folksturm. Questi qua si hanno trattato con un assoluto rispetto. Finivo a parlare con noi altri, dove c'erano anziani, alcuni di questi avevano fatto la guerra del 15-18 sul fronte italiano, erano stati prigionieri degli italiani e loro sono rimasti così perché noi da prigionieri mangiavamo molto di più di quando eravamo nell'esercito austriaco del 18, perché ce ne avevo altre poi che fa, vabbè, ma ce l'avevamo da mangiare. Tempo di tornare in Italia, 2 mesi. E disse, in Germania in questo momento ci saranno 30 milioni di prigionieri da rimpatriare, vabbè, tra russi, francesi, c'erano ancora i francesi del 40. Noi abbiamo avuto un po' di rispetto di non fare a voi questo scherzo, dice, perché non siete in grado di fare un viaggio lenturoso. E si è arrivati in treno poi a Innsbruck. A Innsbruck si è consegnato l'esercito italiano. Sento odore di minestrone. Se avete qualcosa da dire, no, non abbiamo niente. Peccato perché dico tante sigarette qua americane che non so cosa farne. L'SS faceva le provocazioni. Passavano vicino, ricordo, fumando, poi pom, buttavano la mezza sigaretta. Allora i fumatori accaniti non resistono, pom, tutti addosso per pigliare. Chi lo pigliava veramente non fumava, era denaro. I russi erano specialisti, scolgo prodaizza, poi la viva si lavo, vabbè, vendevano il pane per fumare. Allora dico, ho capito, qua se sono fumatori, gioco che avrò le sigarette e lo uso per denaro. Quante me ne dai? Te rodo tutta, ci ho detto, se ci dai da mangiare, va bene. A Bolzano è stato un arrivo che ancora adesso mi commuove. Ci aspettavano le donne con la roba da mangiare. Perché in ferrovia arriva un telefonato, c'è un gruppo di disgraziati, erano dei disgraziati, proprio si capiva niente. E lì era un posto di smistamento, non avevano niente, era tutto improvvisato, diretto dal comitato di liberazione qua di Bolzano. Era difficile arrivare a Roma. Sapevano cosa che facevano i fascisti quando che prendevano i partigiani, quando gli davano in mano i partigiani, li torturavano il peggio dei modi, con i geni in bocca, come un mio fratello di mio marito, preso a Ciupano, ferito, lo hanno massacrato, levato i geni, si incagliù. Tutte le peggio torture che potevano fare, poi gli facevano il cavato e gli occhi. Dovrebbero vergognarsi di quello che hanno fatto contro i suoi fratelli, no? Non sono capaci di vergognarsi. No. Non sono capaci. Dobbiamo perdonarli. Non sono capaci di vergognarsi. Furono solo colpevoli d'aver rifiutato di combattere per il nazifascismo, che causava stragi di persone innocenti, vecchi, donne, bambini. Se oggi viviamo liberi e in democrazia, è merito di questi padri. Prego, perché ci sia ancora gente di cuore che portando con sé i valori della resistenza, lotti per salvare la nostra democrazia. ottenuta col sacrificio di tante vite. Viva la Resistenza! Io ricordo un partigiano della mia valle, era stata catturata la sorella, se la sono passata in un battaglione e poi gli hanno tagliato le tette, l'hanno messa a morire su una ripa. Era già finita la guerra. Il partigiano del sito dei Monti è saltato in mezzo alla strada, c'era un pullman dell'ausiliaria della Kriegsmarine che stava lì, che andava già a casa. Lui è saltato in mezzo alla strada e ha sparato l'intera raffica del mitra dentro nel pullman, il pullman di strada. È stato processato, però io lo capisco. C'era disperazione in giro, perché gli avevano ucciso la sorella in quella maniera. Wo liegt die Grenze zwischen dem, was die Staatsgewalt legitim einfordern kann, und dem, wogegen es nicht nur erlaubt ist, sondern sogar erforderlich ist, Widerstand zu leisten? Bis jetzt wurde es dem gewissen Einzelnen überlassen, die Trennlinie zu ziehen zwischen dem, was der Staat einfordern konnte, und dem, wogegen es galt, Widerstand zu leisten. Mi chiedo se lei personalmente, che ha vissuto davvero cosa voleva dire quel periodo e come si viveva, avesse l'occasione di parlare a quattro occhi con uno di questi personaggi che oggi nel 2018 ancora magari inneggiano al Duce o sperano di ritornare al ventennio, lei che cosa gli direbbe? Direi poco, perché non avremo niente da dirci. Dico, guardate che vi abbiamo conquistato le regole, le abbiamo scolpite nella Costituzione. Voi dovete vivere la responsabilità delle regole, perché solo in quelle condizioni potete pretendere i vostri diritti, che sono scritti nella Costituzione. Quella della Costituzione è proprio l'offerta della democrazia a tutti i cittadini. Posso dire a loro, voi state imboccando una strada senza uscita. Con quelli come voi abbiamo fatto i conti già tanto tempo fa, perché il più alto atto di pacificazione indispensabile dopo la liberazione e dopo la guerra è stata la Costituzione, che è fatta per tutti, non per i vincitori o i perdenti, è fatta per tutti i cittadini. Quello è l'atto di pacificazione. Il bersagliere Gazzetto pende e l'alpino viene una sola, il partigiano non viene una, bastasse i monti a guerreggiare.